Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Americani resistete di e con Ilaria Patamia. 8 settembre 1943. L'Italia firma l'armistizio. Roma viene dichiarata città aperta, che è una frase a cui siamo abituati da un film incredibile che ancora oggi ci commuove fino alle lacrime. Per chi non lo sapesse, città aperta è una dicitura militare. Sta ad indicare un patto che intercorre fra due potenze civili che si combattono su un particolare territorio, due potenze belligeranti che si impegnano ad infliggere quanto meno danni possibile al territorio e alla popolazione che lo abita, impegnandosi quindi a non difendere, a non occupare e a non rivendicare questo territorio, il che rende noto come questo sia stato falso come una moneta da 3 euro, perché fondamentalmente i tedeschi Roma la occupano, i tedeschi hanno un bisogno disperato di Roma, Roma gli serve come il pane, perché Roma si trova in una posizione strategica in quanto perfetta retrovia rispetto alla linea del fronte che sta ad Anzio e a Cassino. Quindi i tedeschi hanno bisogno di quel territorio per mandare lì i soldati a ristorarsi fra un combattimento e l'altro, perché questo è quello che in gergo militare significa retrovia, zona di riposo in gergo militare. In gergo civile significa avere una città invasa da soldati sbandati che mangiano, bevono, vanno a donne, fanno scempio di quello che trovano. Ora, sarà che i romani sono poco ospitali, però questo ruolo di retrovia non è che gli piacesse troppo. Ad ogni modo, i tedeschi cercano di far diventare Roma questa famosa retrovia e per farlo calcolano tutto, tutto. Calcolano dove piazzare i propri presidi militari, calcolano dove mettere i magazzini di stoccaggio di armi e vettovagliamento vario, calcolano dove piazzare i propri tribunali, calcolano come utilizzare le infrastrutture che già ci sono, perché Roma oltretutto è anche attrezzata, ha le proprie strade, le proprie ferrovie, i propri aeroporti, calcolano tutto. L'unica cosa che i tedeschi non calcolano è che a Roma ci vivono i romani. E il romano per sua fisiologia proprio è una creatura che non è troppo incline ad accettare certe situazioni. Pertanto i romani cominciano da subito un'azione sistematica di resistenza. Cominciano intanto dalla prima ora, nelle due giornate immediatamente successive all'8 settembre, quando a San Paolo il fronte dell'esercito regio che cerca di contrastare l'avanzata nazista vedrà fra le proprie fila autoarruolarsi persone della popolazione civile. Arriveranno gli uomini che hanno fatto il militare e sanno come si usa un fucile. Arriveranno i ragazzi che il militare non l'hanno fatto e sperano di non spararsi da soli su un ginocchio. Arriveranno le ragazze che da subito fungeranno da collegamento da un punto all'altro di questo fronte improvvisato. E arriveranno le donne. E questo tratto è tanto più commovente perché le donne all'epoca non esistevano civilmente, non esistevano politicamente, non avevano diritto al voto, non potevano possedere della loro dote, beneficiavano di una mancetta settimanale che gli elargiva il marito, detta lo spillatico, spelluzzicavano da questa dote che avevano portato. Non potevano naturalmente essere votate, non esistevano se non in quanto moglie di, madre di, figlia di. Ecco, questo tratto è commovente perché nonostante tutto, nonostante non esistessero civilmente, queste donne la loro parte la vogliono fare. Però queste donne sono le stesse su cui si è abbattuta quella grandissima piaga che è stata la campagna demografica, ossia il tentativo disperato di dare figli alla nazione che aveva portato le donne ad arrivare di prepotenza a 9-10 figli. E queste donne che hanno passato gli ultimi 15 anni con un bambino per mano, uno in braccio e uno nella pancia, non è che possono scendere a combattere per fare la propria parte, però qualcosa se la inventano anche loro. Ad ogni cessate il fuoco, tra un combattimento e l'altro, le donne scenderanno giù e si improvviseranno infermiere, prenderanno questi feriti, li porteranno su casa, strapperanno lenzuola, metteranno a bollire l'acqua, cercheranno di soccorrerli. E quelle che invece sono un po' più sensibili al sangue, che non ce la fanno a fare questa funzione, cercheranno di portare conforto cucinando per loro patate e cicoria. Si mangia questo a Roma. Però sazia, in qualche modo è importante per chi sta combattendo sapere di non essere solo. E questo tratto, ripeto, è molto commovente, proprio perché queste donne non esistevano. Queste donne qui, queste, sono state prima partigiane e poi cittadine. Loro il diritto di voto se lo sono conquistato sul campo. Ma questa risulta essere, questo sacrificio di tutti risulta essere qualcosa di inutile. I tedeschi la guerra la sanno fare, quindi sfondano, riescono a passare e sono convinti di aver domato i romani, di aver fatto capire ai romani chi è che comanda. La storia ci restituisce una fotografia un po' diversa. Durante il processo Kappler, Dolman, capo delle SS qui in Italia, dichiarerà: Roma è stata la capitale che ci ha dato più filo da torcere. E signori, non è una cosa da poco, Scusate la botta di campanilismo, ma non è una cosa da poco. I tedeschi avevano occupato le capitali di mezza Europa. Avevano occupato Parigi, Belgrado, Atene, Oslo. Quella che gli dava più filo da torcere era Roma. Ma perché? Perché per la faccia della resistenza romana, che era duplice. Perché Roma non resisteva solo dal punto di vista militare. Certo, l'azione militare la conosciamo tutti, no? I famosi GAP. Ma per la resistenza civile. Parlano di portare un contributo. I romani reagirono dalla primissima ora con un atteggiamento molto tipico qui a Roma, che è quello di fare lo gnorri, non lo sapevo, e cose del genere. Tant'è vero che Roma verrà presa da una forma particolarissima, rarissima, transitoria, selettiva e fulminante di amnesia. I romani dimenticheranno delle cose, per esempio i portieri. Alla vista di un partigiano, i portieri, che erano molto amati dai tedeschi poiché a conoscenza di tutti i segreti del palazzo e quindi i delatori per eccellenza, ecco, alcuni portieri erano temuti esattamente per lo stesso motivo, e alla vista dei partigiani questi portieri qua dimenticavano distrattamente la porta delle cantine o della carbonaia o quella del terrazzo aperta. Di modo che i partigiani avessero un posto al coperto dove passare la notte e una via di fuga attraverso i tetti di Roma. Ma non erano gli unici ad essere colti da questa amnesia. Per esempio, questa amnesia colpiva gli osti come categoria lavorativa. Poteva succedere infatti che in un'osteria il cameriere, così distrattamente, alla vista di un tavolo di ragazzi partigiani macilenti che mangiavano, dimenticasse di aver già servito quel tavolo e portasse una seconda razione che non segnava sulla comanda. Certo, patate e cicoria, è una storia di cicoria quella che racconto oggi, patate e cicoria, si mangia questa a Roma, però, ripeto, è un conforto e sazia. Ma se il proprietario la pensava come il cameriere, se l'oste la pensava come il cameriere, anche lui veniva preso da questa amnesia, e dimenticava di portare il conto a quel tavolo che aveva ricevuto la doppia razione. Ma poiché l'amnesia era selettiva, si ricordava perfettamente di portare quanto ordinato al tavolo del tedesco poco più avanti, che veniva minorato nella porzione, maggiorato nel prezzo e condito con l'ingrediente segreto del suo sputo, perché quando si può fare, si fa. Questo tipo di amnesia aveva anche dei risvolti odonomastici. I romani dimenticavano le strade. Non sapevano più dove abitavano. Alla vista di una camionetta dei tedeschi, i tedeschi usavano la camionetta per fare spesso dei rastrellamenti, e i rastrellamenti, contrariamente a quanto si pensa, non erano soltanto legati alla cattura di persone, oppositori politici o ebrei o persone invise al regime, no, venivano catturate anche le persone comune. E perché le persone comuni venivano catturate? È molto semplice, i tedeschi in questa fase qui della guerra hanno bisogno di forza lavoro, è stato detto anche prima, non disperato bisogno di forza lavoro, e pensano di arruolarla nei territori occupati. Quindi fanno dei bei cartelli e invitano i romani a presentarsi per andare a prendere servizio in Germania. Sarà che ai romani non gli piace di lavorare, però non si presenta nessuno e quindi i tedeschi si trovano a salire sulla camionetta per andare a prenderseli questi lavoratori. Ecco, alla vista di queste camionette l'amnesia autonomastica era fulminante, le persone con un rapido gioco di sguardi capivano da che parte tirava il vento e cominciavano a fare «Ma me pare che la via che mi ha chiesto, che si trovava lì è una parallela, se trovi laggiù». Ma quanto laggiù? Saranno 3 chilometri, 3 chilometri, ma mica basta, 3 chilometri a rotatoria, poi giri a sinistra, 7 chilometri fino alla Madonna, cioè se dovevano andare, che ne so, dalla Portuenza, arrivano a Tivoli, a lunghezza se gli diceva fortuna, ma comunque l'ispedito serviva a dare fastidio costantemente ai tedeschi che non stavano tranquilli più né di giorno e né di notte a causa di tutte queste piccole azioni di rallentamento da parte dei romani. I ferrovieri cominciarono azioni di sabotaggio sistematiche, insabbiamento delle bioccole, taglio dei cavi dell'alta tensione per impedire ai treni di partire o di arrivare, e così i pompieri avevano nella loro caserma il distretto dei tedeschi, non sapevo teoria, ma poiché nella stessa caserma c'era una grandissima cellula di bandiera rossa, la caserma filava dritta, liscia, però tutte le mattine c'era un camion che non funzionava e i pezzi dovevano arrivare dalla Germania, spiace. Quindi ogni giorno c'erano tutte queste azioni, fatte da chiunque, fatte anche da persone che poi sono diventate in qualche modo anche conosciute. Ecco, voglio parlarvi di un regista, forse ne avete sentito parlare, non sono sicura che lo conosciate tutti, Vittorio De Sica. Ecco, in questi giorni qua abbiamo Vittorio De Sica che sta girando un film a San Paolo, non a Porta San Paolo, proprio alla Basilica di San Paolo. Si chiama La Porta del Cielo, l'avete mai sentito? Infatti, è un film pressoché inutile, 86 minuti di girato su un treno di pellegrini dove non succede niente. Sta girando e arriva l'ordine di spostarsi da Roma, che è la capitale del cinema con Cinecittà, a Venezia, dove c'è ancora adesso un festival, la Coppa Volpi, dal Conte Volpi di Bisura, vabbè, ma poi ci infiliamo nel Vajont e non finiamo più, però di spostarsi da Roma a Venezia. De Sica dice che lui ci andrà, certo, però non subito, perché il Vaticano sta aspettando, ha pagato un film, e si mette a girare questo film. Per girare questi 86 minuti, De Sica ci metterà 9 mesi, manco Ben Hur è durato così tanto, 9 mesi in cui fra le fila del cast artistico, del personale tecnico e delle maestranze arruolerà tutti i personaggi invisi a regime. Ebrei, oppositori politici, renitenti alla leva, tutti, li chiamerà tutti e insegnerà loro un mestiere, perché se passa un controllo questi devono dimostrare di sapere cosa stanno facendo. Lo racconta proprio De Sica, molto divertito, raccontando che queste persone avevano accettato di buon grado questo invito e stavano lì che mangiavano, bevevano, s'accoppiavano con buona pace dei preti, che stavano lì e facevano «Signore, perdonali per una buona causa», perché erano alloggiati lì al convitto di San Paolo. Ma non è stato solo questo, ci sono state altre azioni. Un'altra che mi viene in mente è quella del Morbo K, ne avrete sentito parlare sicuramente. Un giorno all'isola Tiberina scoppia un'epidemia gravissima. I tedeschi vanno all'isola Tiberina a controllare gli ospedali, perché loro controllavano tutto, ospedali, conventi, dovevano vedere se c'erano questi posti ad accogliere personaggi a loro invisi. Arrivano all'isola Tiberina e da una porta esce un dottore vestito come un apicoltore, un po' come quelli che abbiamo visto durante il Covid, no? Con la tuta, i calzari, i guanti, la maschera, gli occhiali, tutto. E lui gli dice che no, che lì è meglio non entrare, perché è scoppiata un'epidemia gravissima, di un morbo terribile, fulminante, che se ti prende ti annienta in pochissimi giorni, il morbo K. Certo, se loro signori tedeschi devono fare il controllo, procurassero almeno di vestirsi come me, di mettere la tuta, i calzati. Non garantiamo che possa bastare, però almeno una prima precauzione. I tedeschi vedono sta cosa, ringraziano tanto, poi fanno il rapporto e dicono: no, lei è lo scienziato, lei sa cosa deve dire, scrivono Morbo K e se ne vanno. Ed è un bene, perché dietro quella porta sono nascosti degli ebrei. Il Morbo K sta ad indicare il Morbo Kappler. E se Kappler l'avesse trovati, quegli ebrei sì che sarebbero durati pochissimo e sarebbe stato fulminante. Ma non sono le uniche azioni. Molte persone hanno reagito, e anche prima dell'occupazione nazifascista. Io vorrei ricordare una nostra partigiana, una partigiana romana, la partigiana Luce, Luciana Romoli. Luciana aveva solo 8 anni, Luciana Romoli ancora è presente fra noi, si ricorda tanto, è fantastica. Luciana aveva 8 anni quando nella sua scuola arrivano le leggi razziali. Molta gente scoprì proprio quel giorno lì di essere ebreo, tipo Mario Fiorentini, che fino a quel punto non lo sapeva. Mario Fiorentini era figlio di ebrei da parte di padre e lo scopre proprio nel 38. Questa cosa, quando colpisce Mario Fiorentini, viene presa con un moto d'orgoglio da parte di Mario Fiorentini, che dice che lui vuole abbracciarla questa sua diversità, vuole essere una spina nel fianco, e quindi Mario Fiorentini andrà dal rabbino a chiedere di farsi ebreo completamente, di fare la conversione completa. Il rabbino ascolta questo ragazzo pieno d'entusiasmo, lo guarda e gli dice: sì, ma ci sono delle cose da mettere a posto, cioè lei è già stato circonciso, vero? Pare che Mario Fiorentini abbia risposto: vabbè, ci penso un attimo, perché è una scelta importante. Poi è entrato nella resistenza, non se ne è fatto più nulla. Luciana Romoli era una ragazzina in quei giorni lì, siamo nel 38. Luciana Romoli sta seduta nel suo banco a 8 anni con accanto la sua migliore amica, si chiama Deborah, la sua migliore amica. Luciana adora Deborah e Deborah adora Luciana. Un giorno arriva la supplente, che si siede e chiede a tutti i bambini di presentarsi, alzarsi in piedi, dire il proprio nome e sedersi. Quindi si alza Luciana Romoli e dice: Luciana Romoli. Si alza Maria Rossi, Maria Rossi, e si siede, e così via. Si alza Deborah, dice il suo nome, ma la maestra le dice di non sedersi. E Deborah resta in piedi, pietrificata. Luciana la prende per mano, capisce che qualcosa non va. Il resto della classe è impietrita, finiscono questo strano appello. E a un certo punto la maestra dice: quella che sta in piedi è una schifosa ebrea. Voi sapete quanto gli ebrei fanno schifo, vero? Voi vi rendete conto di cosa ci stanno facendo gli ebrei? Voi sapete quali sono le colpe degli ebrei? E quindi adesso sapete cosa fate tutti? Scriverete dei pensierini, ma prima facciamo una cosa. Prende Deborah, la prende per i capelli, Luciana la tiene per mano, non riesce a trattenerla, e la trascina fino alla finestra e la appende per le trecce alla maniglia della finestra, con i capelli che tirano, la faccia che si fa rossa, il dolore forte. Le compagne, perché all'epoca le scuole erano separate fra maschi e femmine, di Luciana sono sempre più allibite. E la maestra dice: ora sì, ora guardatela e scrivete i pensierini su quanto fanno schifo gli ebrei. Io ho raccontato questa storia ai bambini qui a Forte Bravetta e ho chiesto a loro: voi che avreste fatto? Molti mi hanno risposto in modo confortante per noi. Uno mi ha detto: beh, gli avrei detto alla maestra che non è giusto, siamo figli della pace, ragioniamo così. Un'altra bambina ha detto: io mi sarei alzata in piedi, e già era un momento più forte per me. E una bambina, un antifascista di 9 anni, con molta sicurezza ha detto: beh, io avrei legato le mie trecce alle sue. Cosa fecero quelle bambine? Si scagliarono contro la maestra, la riempirono di calci, graffi e pugni e liberarono Deborah. Il giorno dopo Luciana, che aveva uno zio tipografo, scriverà un volantino che distribuirà nelle cartelle di tutti i compagni, perché venisse portato a tutti, in cui denunciava l'azione della maestra, e questo le costerà l'espulsione da tutte le scuole del regno. Ma le sue compagne, che in qualche modo anche loro resistevano, hanno passato un anno intero, estate, inverno, primavera, autunno, con la finestra aperta, perché la classe si trovava al piano terra, per permettere a Luciana e alla sorella di seguire le lezioni dal davanzale. Tecnicamente erano fuori. Ecco, questo è lo spirito con cui Roma tutto il tempo ha affrontato questi giorni terribili, uno spirito fatto di resilienza, uno spirito fatto di coraggio in cui si divideva il poco che c'era. Roma era una città allo stremo, era una città alla fame, si mangiava patate e cicoria, e la cicoria veniva direttamente dalle vie consolari, quelle stesse vie da cui passerà il comandante Clark con la sua quinta armata al momento della liberazione di Roma. Il comandante Clark arriva sul suo carro armato, guarda queste donne, questo comitato d'accoglienza fatto di donne romane, che sono lì chinate a terra a raccogliere la cicoria, e si aspetta che queste donne lascino tutto, raccolgano fiori e gli corrono incontro piangendo, ringraziandolo. Queste donne effettivamente lo guardano, effettivamente piangono, e qualcosa gliela dicono, e poiché erano romane, quello che gli dicono è: oh, ma adesso mi presentate, ma l'animaccia vostra, ma quanto ci avete messo? I romani avevano cominciato a prendere talmente tanta, tanta, tanta sicurezza che un giorno su un muro di Trastevere apparirà una scritta: americani, resistete, veniamo a liberarvi noi. Lo spettacolo Americani resistete di e con Ilaria Patamia. Lo spettacolo Ribelle e mai domata, storia e canti di una famiglia antifascista romana, di e con Compagnia Bosio Teatro Musica, Sara Modigliani, Nicola Sorrenti, Matilde Daccardi, Gabriele Modigliani, Massimo Lella, Roberta Bartoletti. Questa storia che noi vi raccontiamo è il frutto di registrazioni che ha fatto Sandro Cortelli a una famiglia, la famiglia di Mario Menichetti. Mario era un operaio antifascista con moglie e 5 figli. Al momento in cui lui ha fatto l'intervista, Mario era morto, e l'intervista è alla mamma e alle figlie. Noi riportiamo esattamente le parole della mamma e delle figlie. Io faccio la mamma e loro due fanno le parole delle figlie. Mario Menichetti, oltre a essere un operaio antifascista comunista romano, era uno che cantava tanto, cantava volentieri, e le figlie hanno testimoniato tantissimo di questa sua passione. E quindi noi abbiamo intercalato le parole della mamma e delle figlie con le canzoni che cantava il papà. E questa è la storia di Ribelle e mai domata. Insegnamento suo. Lui era piccolo quando si è iscritto al Partito Socialista e poi dopo è passato nel Partito Comunista. Si chiamava Menichetti Mario ed era di Trastevere. Lui era di una famiglia povera perché il padre, mio nonno, era un carrettiere. Lui faceva il muratore, mio padre, però non ha mai potuto lavorare perché ogni volta che trovava un posto di lavoro andavano su al lavoro i fascisti e lo facevano mandare via. Ha fatto 1000 mestieri. Faceva quello che capitava, visto che tanto non poteva lavorare con il fascismo, perché tanto la tessera lui non la prendeva. Qualche volta è andato pure con un carrettino a vendere la frutta per strada, e ci andavo anch'io con lui, perché io sono la più grande di 9 figli. Una vita abbiamo fatto, E poi la fame, quella lunga 3-40 chilometri, sempre, sempre, sempre la fame. Mio padre poi dopo è andato a lavorare con un ingegnere là e questo qui l'ha preso tanto a ben volere. Era un fascista all'acqua de rose, però mio padre era uno onesto, integerrimo, era l'uomo di fiducia suo. C'è stato parecchi anni con questo qui e da lì abbiamo cominciato perlomeno a mangiare. Ci alziamo la mattina, guardiamo intorno, perché noi non sappiamo dove andiamo. In cerca del lavoro è proibito e non si trova manco a base un chiodo. E mia moglie che mi sgrida dice oddio che brutta vita, vita da cani, perché noi siamo tutti disoccupati. Vita da cani, perché noi siamo tutti disoccupati. Trastevere era tutta piena di gente nostra, una buona parte è tutta operai, era gente operaia, tutta gente buona, che gli toccava soffrire perché in quel momento ci avevano tutto in mano loro. I veri romani, ma i veri vecchi antifascisti, lì c'erano, perché io me li ricordo, c'erano veramente, veramente un bel gruppo. E lì c'erano anche dei ladroni in Trastevere, borseggiatori erano, però erano del core. E mio padre era trasteverino di 7 generazioni, ma lo conoscevano tutti, gli cantavano pure la canzone. E se non ci conoscete, guardateci negli occhi. Noi siamo i comunisti di Mario Menichetti. E cantavano sta canzone. Noi lì in Trastevere abitavamo vicino a un altro, che era repubblicano, che hanno ammazzato i tedeschi. Enrichetto Ferola, hanno ammazzato le fosse ardeatine. Noi abitavamo al portone vicino. L'hanno chiamato la notte e l'hanno fucilato i tedeschi perché era uno antifascista e so che faceva le riunioni anche con mio papà, anche se lui era repubblicano. Se io me devo ricordare, ne abbiamo passate tante, le mie sorelle pure, ma a scuola pure discriminate proprio. Noi, per esempio, non prendevamo la tessera, 5 lire si pagava sta tessera, ma noi, a parte che non ce l'avevamo proprio le 5 lire da tagliare per tessera da balilla, ma poi mio padre non voleva assolutamente. E poi magari noi abbiamo trovato pure una maestra che ha capito sta cosa e poi si è stancata e non ci ha chiesto più i soldi. Sì, però poi in classe veniva una, la fascista del quartiere, veniva con la divisa, la signorina Serpi si chiamava, mi ricordo ancora il nome, pure mia sorella se lo ricordo, no, che era autoritaria, era cattiva, diceva proprio in classe: questa qui è una bambina che il padre è comunista e che la tessera del fascio non la prende. E allora sai quante volte mi è toccato litigare con dei bambini? Perché quando uscivamo da scuola, io e le mie sorelle, ci additavano come le comuniste. Ecco, e poi a 11 anni e mezzo ho smesso di andare a scuola, sono andata a lavorare, sono andata lì a Santa Maria in Trastevere a lavorare e lì ho veduto la prima aretata, dico bene, dei tedeschi. C'avevo 11 anni e mezzo, c'avevo, e gli strilli, l'urli, e tutti sti tedeschi lì in mezzo alla piazza di Santa Maria con 3-4 cami che portavano via tutti. Ma allora non mi rendevo tanto conto, però poi dopo, mano a mano, mano a mano. Io mi ricordo appunto lì in Trastevere sta irruenza nella notte dei fascisti che venivano a prelevare gli antifascisti come mio padre. Un fascista, un teppista, l'uno e l'altro è il suo nome. Quella è una cosa proprio che mi è rimasta in mente brutta brutta. Mi ricordo che piangevo vicino a mia madre. Tu sei sempre un vagabondo, gran vigliacco e scellerato, massacrando vai il mondo senza andare carcerato. Tu sei figlio del borghese, il tuo papà persona egregia te proteggeva la guardia reggia e le nostre infamità. O fascista, o teppista, l'uno e l'altro è il tuo nome. La vendetta l'hai già vista, ogni fallo scontar dovrai. Mentre che noi camminavamo, dietro c'erano certi fascisti che dicevano: tu la chiappi di là, io la chiappo di qua, gli damo una bastonata e lo famo fermare lì per terra. Mo, c'era certa gente di Trastevere che a Mario gli volevano bene perché sapevano chi era, che ragazzo era. E loro hanno intuito, corri Mario, scappa, scappa, che questi ti vanno menare. Io sono rimasta un po' così de stucco. Lui piglia e scappa. Scappa e va a casa. Casa sua, tra la terrazza sua e la terrazza dell'altra via, si poteva passare benissimo. E di là ci abitavano i giudii. E allora lui che ha fatto? Ha preso e se ne è ido di là. E i giudii l'hanno salvato. L'hanno sempre salvato, sempre. Pure quella volta che lui ha buttato il carrettino con tutte le noci a Ponte Rotto. Perché Mario, quando che non lavorava, per rimediare qualche cosa, pigliava le olive, un po' di noci e metteva su un carrettinetto e andava a Piazza Giudia. E lì i giudii ormai lo sapevano e si rimediava qualche sordo per mangiare. Un giorno, siccome che lui non c'aveva la patente e i fascisti chiedevano la patente, lui diceva, ma io non ce l'ho, venghi con noi, te sequestramo la roba. Lui, quando che sta attraverso quel ponte che poi va a Trastevere, ah, mi sequestrate la roba? Con sto carrettino si mette davanti alle scale, lascia le stanghe e lascia cascare il carretto nel fiume. Andatevela più laggiù la roba. Tante volte l'hanno preso. Mi pare a Piazza Venezia i fascisti l'hanno portato dentro una sede di loro, l'hanno legato tutto e poi gli dicevano di viva Mussolini. E lui diceva viva Lenin. Botte quel giorno e non so quanti giorni ci ha fatto lì dentro, ma lui non gliel'ha data vinta. Diceva sempre viva la Russia, viva Lenin. Mamma non piangere, se m'hanno menato perché ho gridato viva Lenin. E quando ho capito che avevo sbagliato, allora ho gridato abbasso Mussolini. Dunque io con Mario mi sono sposata nel 25 e siamo andati a abitare in un ospedale vecchio a Via dei Pettinari, perché Mussolini per allargare Piazza Venezia buttò giù diversi palazzi e così tutta sta gente che come noi prima abitava lì l'ha messa in questo ospedale. Un giorno avevo lasciato la porta aperta. Io c'avevo un quadro di Matteotti attaccato al muro. Passa uno scopino e mi domanda, chi è? E che non lo vedi chi è? È Matteotti. Basta, finisce lì. Dopo una settimana stavamo a letto io e Mario e per il corridoio sentimo camminare. Pombro, pombro, pombro. Io faccio, Madonna, chi sarà? Lo senti che rumore? Manco finisco di dire sta parola, una zampata alla porta e la porta si apre. Perché erano fatte e niente, erano i fascisti insieme alla polizia che gli dicono a mio marito: alzate, prima di tutto chiedete il permesso di entrare perché non si entra così con una zampata. Dai, alzate. Uno di questi apre uno dei suoi comodini e dentro c'era una canzone che diceva, mi ricordo solo quattro parole: per mondo cammina della gente assassina. Allora un fascista fa: la gente assassina, mo te la damo noi. Giacomo Matteotti, deputato socialista, crede opportuno mettere tutto in vista. Un giorno avrebbe tutto risvelato, se i traditori non l'avessero spiato, ma non poteva uscire in quel momento, perché l'hanno soppresso col vile tradimento. Comunque in questura c'è stata una decina di giorni, poi da lì l'hanno mandato in Cinacelli. Aveva chiesto il permesso per andare dal padre che stava per morire, che poi è morto, ma non gliel'hanno dato. Dopo 10 giorni mi mandano a chiamare e mi dicono, sa signora, suo marito l'hanno destinato a Ustica, è meglio che si prepara. E siamo andati a Ustica. L'hanno condannato a 5 anni di confino per antifascismo. Era un anarchico pericoloso, dicevano. Io l'ho veduta alla stazione quando mi partiva. E dopo sono partita pure io con la bambina, 3 mesi e mezzo dopo. E là bisognava filare dritti perché lì c'erano i fascisti. E lì ho conosciuto Gramsci. Beh, non ho che ci avevo proprio contatto, perché era un uomo molto riservato, Gramsci. Un uomo preciso, per carità, che aveva un po' la schiena curva. Poi Gramsci da lì l'hanno mandato via. Io credo che sia venuto a Roma per il processo, che poi è morto là. I fratelli Rosselli sono scappati. Erano due fratelli e uno c'aveva una moglie, una piccoletta. Però non credo che erano comunisti, ma erano avversi al regime fascista. Infatti, dopo un po' di tempo, sentimmo che questi Rosselli l'avevano ammazzato in Francia, è vero? A Ustica, con qualche confinato comune, c'avevamo pure magari qualche rapporto. Erano fuori disgraziati pure loro tante volte. Io poi ero piccola, ero a mascotte. Ci stavano anche gli arabi. Per esempio i libici, uno era il capo libico, lui è il figlio, e questo qui me lo raccontava mia mamma, io non è che mi ricordo le cose perché avevo 3 anni, e a questo qui i fascisti gli avevano impiccato il figlio, e lui stava pure là. Io poi sono rimasta in stato interessante, e Mario dice, non devi partorire qui, e sto venuta a Roma. Io volevo mettere nome Esiliana, non me l'hanno fatto mettere da esilio. E poi ho messo il nome Liviana, tanto io ce la chiamavo uguale. Poi ho ripreso di nuovo il treno per Villa San Giovanni, con tutte e due. Valtera c'aveva 2 anni e Lilla c'aveva 1 mese e mezzo, mi pare. Ma lì te puoi immaginare, perché prima ci voleva più tempo da Roma per arrivare a Villa San Giovanni. E allora mi toccava pulire sta creatura e fasciarla, pulirla, allattarla, tutto lì sopra il treno. Sul feribotte poi è un romanzo, mi piglia il mal de mare. Giuro, se io ci avevo la forza di alzarmi, me sarei buttata al mare. Per il gran male che ho passato. Io sono stata, quando sono arrivata a Ustica, una settimana a letto, che mi girava tutto per quanto sono stata male. Spose madri, la società dei ladri, ci hanno fatto relegare, sepolti rivali, siamo coatti e balli, per l'isola e non ci vergogniamo. Non di ritorneremo più fieri ed implacati, finché rivendicati non siano i diritti a ogni lavorato. A Roma, quando siamo tornati, dove siamo andati è un romanzo. C'aveva una sorella, Mario. Ci ha aiutato, se non era per lei. La sorella ci ha detto, cercate, se potete, di trovare magari una camera in affitto. Ma non c'era verso, perché prima di tutto volevano sapere dove ero stata, ma io glielo potevo dire che ero stata a Ustica? C'era gente che ci aveva paura. Allora ci ha ricoverato un po' un fratello di lui, ma pure lui stava in sopraffitto in una camera e cucina. Un po' di tempo, e poi siamo dovuti andare via. S'acchiappamo queste due creature e piano piano siamo arrivati alla stazione e poi lì ci siamo messi a sede. Era un bel po' che stavamo lì a sede e arriva un poliziotto e mi dice, ma che state a fare qui? E Mario gli ha raccontato che non c'avevamo la casa e tutto. Allora dice, venite con noi. Ci hanno fatto dormire in uno stanzone per una nottata e il giorno appresso ci hanno mandato al commissariato, in questura mi pare. Allora dice, alberghi rossi. Allora il fascismo aveva pensato bene di mannacce tutti questi antifascisti, li mandava a Garbatella e c'erano due palazzi, l'albergo rosso e quello bianco. Quello rosso dove ci andavano tutti i comunisti, allora noi siamo andati a finire lì. Ci stavano tutti quei poveri che avevano perso la casa, c'avevano la casa, c'avevano il lavoro, non c'avevano niente, li mettevano tutti lì e stavano tutti loro, così erano guardati a vista, stavano tutti lì e non si potevano muovere. Ci siamo di 4 o 5 anni. E c'è Stefano, insomma, c'avevamo sta camera e dentro c'era il letto di ferro, un armadio di ferro, un tavolo di ferro e basta. E non potevi cucinare, prato a cucinare se volevi mangiare, ma quando tirava vento, quando pioveva, stavi così, con l'ombrello a soffiare e magari ti mangiavi a terra. E poi lì dovevamo pagare la pigione tutte le settimane. E noi quando ce l'avevamo? E qui non lavorava mai, che non lo facevano mai lavorare, come lo trovava il lavoro dicevano subito caccialo via. Pure gli impresari, quelli del lavoro, ci avevano paura. Era una vita di paura. E poi dopo ci hanno cacciato via, perché era da una o due settimane che non potevamo proprio pagare. Quando siamo andati a casa ci abbiamo trovato uno che aveva forzato la porta e quelli volevano i soldi, se no non rientravi. E allora siamo andati in balia. Io sono andata a dormire alla stalla dove stava papà a pitare e lui è andato a dormire dal fratello, separati così. Perché intanto che mio padre non ha trovato questa specie di tugurio così, e siamo andati a stare in via della Pelliccia, che sta dietro la chiesa di Santa Maria in Trastevere. Ma la casa era brutta, e poi ormai eravamo pure 5-6 figli. Abitavamo in quello scantinato di Trastevere, pieno di bacarozzi, perché era vecchio, case vecchie, ma i sorci, i topi, non ti dico come abbiamo vissuto lì. C'era tutto un camerone, da una parte, così, a un angolo, c'era la tazza del cesso, e vivevamo tutti dentro sto camerone, tutti insieme, così. E l'unica finestrella così che illuminava sto camerone. Casa nostra era brutta, era triste, però era sempre piena di gente, perché tra i compagni che venivano c'è stava la gente che ci aiutava. Io mi ricordo, per esempio, c'è stava un macellaio che ci dava sempre la carne a noi, sempre. Sì, c'era una grande solidarietà. Ricordo tante cose che veramente spiacevoli, Per esempio, quando venivano i fascisti, ogni volta, non lo so, che era il 1° maggio, venivano a casa e perquisivano. Io mi ricordo che una volta stavo da sola a casa e non lo so, mia madre era andata fuori un attimo a comprare qualcosa e mio padre non c'era, e sono venuti sti fascisti e sono venuti a perquisire e mi dicevano a me: ma tuo padre l'armi dove le tiene? E io dico: ma mio padre l'armi non ce l'ha. E io ormai avevo capito tutto, l'armi mio padre non ce l'aveva davvero, poretto. Tant'è vero che gli dissi pure: ma non vedete come sta, non c'è manco il coltello per tagliare pane. Però gli dico la verità, quella volta lì io presi tanta paura che c'aveva la febbre a 40, c'aveva. Lui era un partigiano, io c'ho pure il foglio, ma quello che lui faceva a me non me l'ha mai detto, mai. Dico una cosa e lo giuro, è vero. Se per combinazione io sapevo che lui faceva staffare, io l'ammazzavo. Ma io ero pure contro il fascio, perché io lo vedevo quello che hanno fatto, capito? Liliana ne sa qualche cosa, perché lui gli metteva tutti i manifestini in petto, andava nelle caselle delle lettere e li buttava lì. Tutti i giornaletti che mi infilava dentro al petto, papà. C'era proprio una tipografia. Papà andava lì per qualche foglio, qualche cosa, giornaletto, d'unità. Io me lo ricordo. Lo mettevamo dentro al petto, mi ci portava a me apposta, perché dice: sai, una ragazzina magari passa un po' sotto. E poi andavamo a distribuire per le cassette delle lettere. E poi magari può essere che mamma mia aveva messo su una pila di minestra senza niente e lui veniva in camera: ehi ragazze, volete un po' di minestra? E lui magari non mangiava niente. Comunque io ricordo più angosciante proprio che mi ha stretto È stato quello quando qua a notte tutti quei fascisti si sono entrati, che si sono portati via papà, no? A me mi ha proprio assassinato, guarda, addosso a mamma pure. Tutti attaccati ai stivali di loro, perché poi noi piccolette ne vedevi visti Gesù Cristo con sti stivali, ti mettevano paura. Mamma mia, non ve lo portate via, non ve lo portate via! E poi che quando poi ritornava a casa che era gonfio come un pallone dalle botte, è stato terribile. Legato pure, c'aveva ancora tutti i segni ai polsi, Porello. Come facevi a non volergli bene? Mamma mia, che uomo che è stato. Padre di famiglia se ne stava al suo lavoro per guadagnare il pane ai figli loro. Quanta gente ho visto alla stazione, furono visti, era quella canaglia fascisti. Il treno fermo e non andò più avanti, erano armati peggio dei briganti, s'udiva solo un colpo di moschetto e stramazzava al suolo il poveretto. Sparse la voce per la capitale, combatti dichiarò sciopero generale. E mia madre è stata martire pure lei, perché ha amato tanto mio padre che l'ha seguito pure al confino perché erano sposetti. Però certo che con mio padre ha sofferto, con tutti sti figli, ogni volta che usciva dalla galera ne combinava una, mio padre. Mia madre, non lo so come ha retto. Lei c'aveva una grossa stima di mio padre, chiaramente, però certo che la miseria se l'è proprio bevuta, a lei e a noi. Ma sai, a quei tempi la televisione non c'era, allora ai 5 stai a letto. E per forza, no? Tante volte che rimproveravamo a mia madre, ma dico pure tu tutti sti figli, non le dovevi proprio far per niente. Io ci ho provato pure, dico la verità, a farlo procurato l'aborto, ma un altro po' moro e lasciavo tutti gli altri figli. E sapessi in dove sono andata, da una persona che era pure una parente, e questa effettivamente manco ci voleva mettere mano, ma vista la grande miseria nostra, ci ha provato. Ma io ero al terzo mese, ho cominciato a sentirmi male, e se non era per mio fratello io morivo. Perché a me mi aveva preso un'emorragia che mi si stava a portare via. Mario non c'era nessuno. E allora sto fratello mio Ettore mi veniva a trovare a combinazione quel giorno, mi ha visto in quella situazione e mi ha visto che stavo proprio malamente e mi ha portato al Santo Spirito. Al Santo Spirito c'era un'altra figlia di una buona donna, un'infermiera, voleva sapere come ho fatto, perché andavi carcerata, Dico, sono cascata. C'è uno scalino dentro casa mia, ho intruppato lì e sono cascata. È venuto il dottore, ha acchiappato l'infermiera, l'ha scansata e gli ha detto ma vattene via, ma non lo vedi che la signora sta male? Lasciala perdere, ti ha detto che è cascata e basta. E io pure lì mi sono salvata, perché magari morivo, ma io non parlavo. Ma in tutti i modi mi sono salvata lì con questo dottore che è venuto. E poi è finito tutto. Lei si è innamorata prima che De Mario della sua voce. Ha fatto certe serenate. A quella casa via dei Pettinari la gente si affacciava tutta, battiti le mani, cantava proprio bene bene. Brillano a mille lassù, questa serata incantevole, c'ha manchi solo che tu, dormi e non pensi allo spasimo, che sto provando qua giù. Serenata, te voglio spazio. mentre che sta a riposare. Bacela in bocca e baciandola cerca da farla svegliare. E mio quel bacio è sussurria che me lo venga a ridare. Ristornelli cantava Caserio e poi io me lo ricordo mentre imbullettava cantava siamo coatti a parti per l'isola e poi spesso e volentieri cantava anche quell'altra dell'Anarchi, cioè Dio Lugano, e cantava pure quelli che hanno ammazzato in America e poi cantava quella delle famiglie povere che le figlie si danno agli signori perché si morono di fame. Siamo i poveri, siamo i pezzenti, la sporca plebe di questa età, la schiera e il numero dei sofferenti, per cui la vita gioie non ha, per cui l'inverno la nostra prole, per lunga inelia languir vediamo, solo per i ricchi risplende il sole, mentre si esultano noi fame abbiamo. Spettacolo le nostre donne, per noi primizie non andamor, ancora in poveri sciolte le gonne, si danno in braccio allor signor, son nostre figlie le prostitute, che muoiono fisiche negli ospedali, le disgraziate si son vendute per una cena. Sperare non è utopia, nella giustizia dell'avvenire, il privilegio di tirannia e turpe regno dovrà finire, le nostre lacrime, gli stenti l'onte, le grandi ambasce sparir dovrà, noi già le abbiamo alta la fronte per salutare. Quando si sentiva le sensazioni dentro, invece in altri momenti cantava canzoni romane, gli stornelli, e il Barcarolo la cantava con un'aria un po' ironica. Io no, io la faccio normale. Quanta pena stasera c'è sul fiume che fiotta così, disgraziato chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovemo soffrire, si c'è un'anima che cerca la pace, può trovarla soltanto che qui. Il Barcarolo va contro corrente, e dissi a Nenè: quest'amore è ormai tramontato. E lei rispose: lo vedo da me. Sospirò, poi mi disse: addio amore, io però non mi scordo di te. E corsi appresso, ma non arrivai. La cerco ancora e non la trovo mai. Se è vero, fiume, che tu dai la pace, e fammela trovare. Proprio incontro al battello, vedo un'ombra sull'acqua, vien qua. Poi si gira che c'è un mulinello, poi si assomma, riaffonna più in là. Voga presto da donna e affogata, poveraccia penava chi sa. La luna da lassù fa una boccella, rischiara un viso, è Nina bella. Mi chiese pace, io gliel'ho negata. Fiume, gliel'hai data tu. La dai, la dai, la dai, povero amore. La dai, la dai, la dai, non ci sei più. Me voglio sperdere giù. Faceva pure parodie sul Nabucco, dunque faceva: vieni omaggio, t'aspetta le getti. E poi parodie Tripoli, quando avevamo conquistato Triboli, fino a domani Triboli sempre, tribolerai ancora. E la canzone che cantava riferita all'Unione Sovietica, la Guardia Rossa? La Guardia Rossa che marcia alla riscossa, che scuote dalla fossa la schiava umanità. Lui ce l'ha insegnate tutte. Che poi cantava pure bene, era intonatissimo. Papà, cantice una canzone, gli dava un tormento oltretutto. E poi mi ricordo pure col sangue, sì, te la ricordi? Lui la cantava così. Comunisti della capitale, giunta qui nel dì della riscossa, alzeremo sopra il Quirinale bandiera rossa. La città più bella è mai domata, le rovine dai bombardamenti, la Guardia Rossa suona la tuna. Carcere con filo e di bastone, hanno meno mato al comunista, la convinzione, la convinzione di una nuova era, che al mondo porterà la redenzione, che porta scritto sulla sua bandiera. La polizia ce lascia perdere, e se la polizia ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate. borghesia e capitalismo. Nel sangue sorgerà la nuova storia del comunismo. Nel sangue sorgerà la nuova storia del comunismo. E poi la cosa più bella, secondo me, in Trastevere è stata quando è caduto il fascismo. Sì, perché noi dormivamo e sono venuti tutti, mezza Trastevere davanti a casa nostra, a svegliare mio padre, a chiamare Manichetti, Manichetti, a bussare al portone lì. E poi mio padre è uscito e dice: è caduto il fascismo e tu ancora qua stai. E allora siamo andati, mio padre mi ha preso, a me, e siamo andati per Trastevere così, insomma, a manifestare. E quella lì me la ricordo bene. Mi vengono ancora i brividi, una cosa veramente che non si può descrivere. E poi dopo siamo venuti a Valmelaina, da stalla giù in Trastevere, al settimo piano di Valmelaina, due camerette e cucina in 11 persone, eppure ci sembrava un sogno rispetto al pian terreno trasteverino, e c'era la luce poi. Lì è stata la fortuna di mio padre, perché sono stati arrestati parecchia gente lì in Trastevere dove stavamo. Mio padre invece, stando qua, si è salvicchiato un po'. Allora, Valmelaina, non so se tu ce l'hai presente, è situata a collina di via da Serpentara. E lì prima c'era tutta una collina verde e c'erano appostati tedeschi con le mitraglie. I bombardamenti erano continui. A noi ci hanno mitragliato mentre facevamo la cicoria, io e mia sorella. Hanno fatto un duello aereo con un caccia tedesco e un americano proprio qua sopra a mitragliate. Poi sul ricovero pure, qui sopra a Valmelaina dove c'è la chiesa, sotto c'era un ricovero, un tunnel, eppure lì sopra hanno bombardato. Poi pure i palazzi dei case nuove e dei case popolari hanno bombardato. Era successo che avevano bombardato qui, a Osmistamento, dove abito io tra l'altro, e avevano bombardato tutti i carri ferroviari, carichi d'ogni ben del Dio che andavano in Germania. E da sti carri ferroviari tutti sventrati usciva ogni sorta di cosa. E lì, arembaggio proprio, io pesi tu sacchi che manco mi ricordo quello che erano, scarpe, caffè, quello che era. E un via vai di gente su quella collina per Smistamento che sembravano le formiche, chi andava, chi veniva, proprio perché a fame ci avevamo. Però c'era rischio, bombardavano. E poi io, quando hanno bombardato, stavamo ancora tutti dentro casa. E allora tutti a correre nel rifugio là a Valmelaina. E in quel rifugio c'è morta pure una donna, perché l'hanno acciaccata e l'hanno proprio calpestata. Però quello più tremendo è stato quello di San Lorenzo. Quello che abbiamo visto. I cavalli tutti coi zampe per aria, i tubi che uscivano l'acqua, un casino, macerie, macerie, gente che piagneva, una cosa tremenda proprio. E papà, che non lo trovavamo. Le case lì, mi ricordo di San Lorenzo, tutte sventrate lì a Piazza Santa Croce. E siamo ritornati indietro che non avevamo trovato papà, tutti avviliti, pianti. E poi per fortuna che è venuto lui, quello che ci ha raccontato, l'ha salvato una panca di legno che lui si è infilato là sotto. Cadevano le bombe come neve il 19 luglio San Lorenzo. Passato il verano, dopo il bombardamento, tornano a galle morti su 200. Cadevano le bombe a San Lorenzo e un uomo stava a guardare la sua mano, viste dal Vaticano, sembrano scintille. L'uomo raccoglie la sua mano e i morti sono mille. E un giorno credi questa guerra finirà, ritornerà la pace e il burro. A buon pranzo la domenica fuori poi ci resta. Oggi pietà è morta, ma un bel giorno rinascerà e poi qualcuno farà qualcosa. Magari si sposerò. mattina da San Pietro, uscì tutto da solo tra la gente e in mezzo a San Lorenzo, spalancò le ali, sembrava proprio un angelo con gli occhiali. E un giorno credi questa guerra finirà, ritornerà la pace e il burro abbonderà e andremo a pranzo la domenica fuori porta a Cinecittà. Oggi Pietalla è morta, ma un bel giorno rinascerà e poi qualcuno farà qualcosa. Magari si sposerà. Un'altra guerra, perché la fame, la privazione, ci sono state buone e buone altri 3-4 anni. Guarda, noi abbiamo visto morire de fame, letteralmente, no? Un cuginetto nostro e quella ragazza che abitava a Scalata, ricordi, Rossa? Una bella ragazza, è morta de fame. Ah, tubercolosi, ce n'era tanta, per non parlare delle malattie infettive come la scabbia, eravamo pieni di bolle, di pidocchi. È vero che c'era la ricostruzione cosiddetta, ma è vero anche che i problemi c'erano comunque, sia per lavoro, sia... Ricordo che mio padre, come finiva un cantiere, rimaneva disoccupato e prima che trovava lavoro passava addirittura un mese e in quel periodo poi si litigava perché noi avevamo fame. La domenica, un pezzettino proprio, ma tanto da poterci far sugo per farci un piatto di pasta. Filone di minestra, pranzo, cena e colazione. per cui devi trovare Viagra, piena di piaghe, perché mancanza di vitamine, di nutrizione. E questo dopo la guerra. E poi comunque un senso di freddo dentro e fuori. Ah, io questa cosa me la ricordo, perché fisicamente ho sofferto tanto, perché poi ho detto, senza coperte, senza cappotti, con quello che c'avevi andavi a scuola. E scarpe rotte, e scarpe di altri, da maschio, ma chi ce l'aveva le scarpe? Una povertà davvero incredibile che non riuscivi a spiegare nemmeno a te stessa, perché eri piccola, capito? Però non chiedevi. A chi chiedevi? A nessuno, perché nessuno ti rispondeva. Ci sono voluti 4-5 anni prima che potevi dire mo magno. Roma, Roma, città tanto cara, dove se magna, se beve poco e se paga. C'è qualche disoccupato che non ha mangiato, c'è Sarkozymato, c'è Villa Borghese, vanno a digerì. Regina c'è lì, cannacce a dormire. E la mia cara gente c'è stampato tutto il ladro e farabutto nel piegato c'è. Io ci sono stato e ci si sta bene. Per i vecchi c'è sta Santa Calla, per le vecchie c'è sta Sant'Onofrio. E allora cara gente a Roma nostra non ci manca niente, c'è sta la ricchezza e la gran povertà. Chi magna tanto e chi sta a sbadia. Città tanto cara, c'è sta caro perfino il carbone. E la mia cara gente c'è stampato e tutte le altre farabutte e l'impiegato c'è. Ci mancavamo noi altri tre. Leggeva parecchio. Il suo sogno era proprio quello di mandarci a scuola, perché lui poverino a 7 anni è dovuto andare a lavorare e perciò. E poi era d'umanità, che era incredibile proprio. È stata sempre una lotta, sempre. Se pensi a tutte le lotte che ha fatto papà. Noi ci credevamo. Ci credevamo tanto. Lo spettacolo Ribelle e mai domata, storia e canti di una famiglia antifascista romana, di e con Compagnia Bosio Teatro Musica, Sara Modigliani, Nicola Sorrenti, Matilde Daccardi, Gabriele Modigliani, Massimo Lella, Roberta Bartoletti. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Gianluca Cheli per presentare il Festival Diffuso La Città Ideale a Roma dall'8 giugno all'autunno. Ben trovato. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Di cosa si tratta? La Città Ideale è un festival partecipato di progetti che si svolgono in spazi urbani, prevalentemente nel Municipio 5 di Roma, quindi Centocelle, Prenestino, Villa De Santis. Il nostro festival è attivo da 7 anni, quindi dal glorioso 2017, quando il Comune di Roma ci chiuse il Teatro dell'Orologio e quindi iniziamo a ragionare a un nuovo modo di portare quello che facevamo in teatro tra la gente, per le strade, per recuperare un dialogo e una prossimità con le comunità. E quindi torniamo dall'8 giugno con una programmazione a Villa De Santis e con una serie di progetti diffusi nel quartiere. Com'è strutturato rispetto ai luoghi e ai giorni? Si possono individuare nel programma di giugno che è quello che stiamo lanciando in questo periodo. Poi dopo a luglio usciremo con il programma del mese e si possono individuare alcuni filoni narrativi, alcuni filoni di programmazione. Sicuramente tutti i fine settimana a Villa De Santis ci sarà il Circo Ideale, che è il nostro appuntamento per le famiglie e per le nuove generazioni, per i più piccoli. Sabato e domenica, doppio spettacolo nel fine settimana, con il sabato anche dei laboratori, tutto quanto gratuito, di approfondimento delle pratiche circensi. Le domeniche a Villa De Santis sono dedicate alla musica. Avremo un grande concerto dell'Orchestra Eico di Europa in Canto, diretto dal maestro Germano Neri, l'11 giugno, dialoghi sinfonici, un format che noi sposiamo da 4 anni ormai. È una dinamica orchestrale molto interessante, per cui il direttore di orchestra scompone gli elementi musicali che va ad eseguire e spiega al pubblico come nasce la sinfonia o il pezzo musicale che il pubblico sta ascoltando. Nello specifico, l'appuntamento dell'11 giugno sarà dedicato ai classici quotidiani, ovvero tutte quelle musiche, da quelle opere della tradizione classica, sinfonica prevalentemente, che fanno parte del nostro quotidiano. Suoneria dei cellulari, pubblicità, suoni di accensione di dispositivi elettronici e quant'altro. Quindi è un modo per riscoprire come il suono classico stratificato faccia parte del nostro presente e dargli un'identità e un volto. Domenica 18 sarà invece una giornata dedicata ai cori a cappella con 100 voci, ci saranno coro Cantering, le Mani Avanti e Vocalotiti, e l'ultima domenica di giugno invece sarà dedicata a un nostro format che ormai è abbastanza conosciuto tra il nostro pubblico, che è Opera Taxi, che è questo viaggio all'interno del repertorio musicale di un mezzo soprano che si fa all'interno di un van, e quindi c'è una grandissima vicinanza tra pubblico e performer, e questa versione speciale sarà fatta appunto all'interno di Villa De Santis, unendo verde, ecologia, perché il mezzo è totalmente ambientale, e tradizione lirica. Nel complesso, quanti saranno gli eventi e quanti gli artisti e le artiste coinvolti? Non so dirti esattamente quanti appuntamenti ci saranno di artisti. Su questa prima parte ne abbiamo moltissimi, considera che soltanto l'Orchestra Eico sono più di 40 elementi. Opera Taxi coinvolge 2 cantanti diversi e un compositore, che è Francesco Leinari, con cui abbiamo creato questo formato. Poi abbiamo il formato sui mercati rionali, che si chiama Music Market Box, una specie di jukebox che permette ai clienti del mercato, quindi tu vai a fare la spesa al mercato, ti vengono dati dei gettoni e li puoi cambiare. Music Market Box, dove c'è un piccolo ensemble che riproduce delle canzoni della tradizione musicale italiana riarrangiate in maniera completamente inaspettata, e anche lì sono 3 strumentisti, poi c'è Balera, insomma è davvero molto molto ricco. E per quello che riguarda gli appuntamenti, siamo all'incirca una media di 5 appuntamenti alla settimana, quindi su un mese parliamo di circa 20 appuntamenti per il mese di giugno. Com'è stata la scelta artistica? Cerchiamo sempre di costruire i formati artistici in dialogo con gli artisti, quindi non facciamo la classica programmazione in cui si scelgono dei progetti già costituiti. Lavorando negli spazi urbani sentiamo la necessità ogni volta di mettersi in dialogo sia con lo spazio urbano che con le comunità che lo abitano, con lo spazio. E questa radialità ci porta a essere un festival molto produttivo, quindi succede molto spesso che gli artisti creino, insieme alla nostra direzione artistica, che è di Fabio Morgan, dei dispositivi che poi la Città Ideale realizza e promuove e che diventano la sua specificità. È stato così con I Nasoni Raccontano, che è uno dei nostri progetti di punta, che va avanti da 7 anni alla stessa età del festival e che ogni anno racconta un quartiere della città, raccogliendo una serie di aneddoti, storie popolari, cambiando un po' la prospettiva rispetto a quella che è la narrazione di Roma, sempre molto legata al centro storico, quelle alla grande Roma. Si va a raccontare una storia più popolare legata alle borgate, legata a uno sviluppo della città che viene spesso ignorato dalla narrazione generale che se ne fa. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? C'è il nostro sito, che è www.lacittaideale.eu. I nostri canali social sono costantemente aggiornati, anche perché lavorando in urbana il meteo ci riempie sempre le giornate di imprevedibilità, e quindi trovate su Facebook La Città Ideale, e il nome utente è La Città Ideale RM. Ci trovate poi su Instagram come La Città Ideale. Se volete scriverci c'è anche un'email, che è info@lacittaideale.eu. Il festival diffuso La Città Ideale a Roma dall'8 giugno all'autunno 2023. Un saluto e un ringraziamento a Gianluca Cheli. A presto. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. con Valerio del Museo di Via Tasso per presentare La Resistente, Festival della Memoria e della Liberazione, al Museo Storico della Liberazione in Roma, 10 e 11 giugno 2023. Ben trovato. Grazie, buonasera a tutti e a tutte, ben trovati a voi. Ce ne parli? Il festival nasce come idea più o meno un anno fa, nella volontà di provare a valorizzare e di raccontare tutte quelle attività che il Museo della Liberazione svolge, quindi sia di ricerca storiografica e divulgazione, ma anche di accoglienza e visita del museo stesso. Museo Storico di Via Tasso, oltre a ospitare un'esposizione, in realtà è il luogo stesso, un luogo della memoria, il luogo dove appunto le SS avevano il quartier generale durante l'occupazione nazista, era il luogo, il carcere in cui gli oppositori, i partigiani o anche semplicemente chi veniva sospettato di essere antifascista o di svolgere delle attività contro l'occupazione nazista veniva appunto incarcerato, torturato, interrogato e nella peggiore delle ipotesi veniva anche appunto eliminato. Ovviamente la storia di Via Tasso si lega a doppio filo a quella che è stata l'azione di Via Rasella e la rappresaglia nazista delle fosse ardeatine, per cui per esempio una serie di sale sono dedicate proprio a questo. E in tutto questo lavoro che il museo fa quotidianamente per raccontare e per tenere viva la memoria, ma non solo, per cercare e ricercare quelle che sono non solo la storia dei grandi eventi o dei grandi personaggi, fossero anche legati alla resistenza, ma di raccontare un tessuto sociale, di raccontare storie anche meno conosciute, di raccontare persone che si sono mosse all'interno della resistenza, sia a Roma che ovviamente nel resto d'Italia, e che hanno contribuito a liberare l'Italia. E al di là di questo, ovviamente, oltre a raccontare e a fare un'operazione di divulgazione, di ricerca storica, lo sforzo che proviamo a fare all'interno del museo è proprio quello invece di ricercare e di costruire strumenti che possano essere utili anche a interpretare il presente e quindi ovviamente di attualizzare tutta una serie di concetti e di dinamiche storiche che appunto all'interno di quel palazzo, ma della città di Roma si sono realizzate e che ovviamente poi nel tempo costruiscono conseguenze, costruiscono relazioni, costruiscono altri eventi. Quindi questo è lo spirito con il quale proviamo a realizzare questa prima edizione della Resistente, con un programma di 2 giorni che spazierà da iniziative di approfondimento a reading, a visite per il museo, sono visite speciali, a concerti in mezzo alla strada, perché si monterà un palco proprio su Via Tasso all'altezza dell'entrata del museo. Rispetto agli eventi, com'è stata la scelta artistica? Anche lì è stato proprio continuare a ragionare su una storia non solo popolare, ma una storia dal basso, ma anche una storia del tessuto sociale di Roma, di quelle che appunto sono delle dinamiche che si trovano nella società. Perché quello che poi, ad esempio, spesso e volentieri i partigiani dei GAP romani hanno detto è stato che appunto loro hanno potuto svolgere 9 mesi di resistenza attiva, compiendo decine di azioni, grazie al fatto che c'era una città che li ha accolti, protetti, nascosti. E quindi questo ragionamento l'abbiamo provato a riportare anche nelle scelte artistiche. Per cui, ad esempio, quello che ci sarà sabato sera, un reading tratto dalla storia di Elsa Morante, è affidato alle voci di Chiara Giancardi e di Gelvin Trinca. Abbiamo pensato che fosse il testo adatto per essere inserito all'interno di questo festival. E poi i concerti che seguiranno, per esempio sabato sera, sono Scuola Romana, che è appunto in questo caso un trio cantato orale che fa dei pezzi della ricerca musicale proprio anche a partire dalla memoria storica di Roma. E a seguire ci sarà Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio, che della tradizione culturale popolare, in questo caso italiana, nello specifico del sud, è un interprete da tantissimi anni. E per ultimo, su questo noi siamo molto contenti, anche perché è stato un lavoro in fieri costruito insieme a Stefania Placidi. La domenica sera ci sarà un concerto in cui si intrecceranno la vecchia scuola di quella ricerca musicale che sta all'interno della tradizione orale, che è per esempio la ricerca che ha condotto Gianni Bosio, per cui all'interno di questo ragionamento, di questo filone, siamo molto molto contenti poi sul palco avremmo la presenza di tre figure storiche che sono Sara Modigliani, Giovanna Marini e Lucilla Galeazzi. E insieme a loro sul palco ci saranno Michele Manca, Flaviana Rossi e proprio Stefania Placidi, che sono stati loro allievi e allieve, ma poi negli anni sono diventati a loro volta delle musiciste e dei musicisti che continuano a fare quel lavoro di ricerca, di trasposizione sul palco di musiche e parole, e che appunto saranno tutti insieme e che penso che rappresentino bene il senso del festival. In chiusura diamo tutti i riferimenti web per il programma? Principalmente i social del Museo della Liberazione, quindi sia su Facebook che su Instagram, tanto si verranno indirizzati sempre sulla pagina del museo, quindi lì trovate il programma, ma trovate anche i contatti, nello specifico la mail a cui prenotare sia le visite con gli accompagnatori soliti che portano in giro i visitatori e le classi durante l'anno, ma che verranno poi intersecate con delle performance teatrali, in questo caso della compagnia Bastolini Baronio, che hanno affrontato questa sfida con noi, quindi ci saranno delle incursioni e delle ibridazioni durante queste visite speciali, e si potrà prenotare anche il laboratorio per bambine e bambini che si terrà la domenica mattina. Prima edizione della Resistente, Festival della Memoria e della Liberazione, a Roma, al Museo Storico della Liberazione, 10 e 11 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento a Valerio del Museo di Via Tasso. A presto! A presto, un saluto a tutte e a tutti voi. Con la regista Francesca Tricarico della compagnia Le Donne del Muro Alto per presentare l'omaggio a Massimo Troisi con lo spettacolo Il Postino nella sezione transgender del carcere di Rebibbia giovedì 8 giugno 2023. Ben trovata! Grazie mille a voi, ben ritrovati voi. Parlaci di questo progetto. Questo nuovo progetto è all'interno del carcere di Rebibbia Massimo nella sezione transgender, perché le donne transessuali che non sono ancora state operate si trovano all'interno del carcere maschile. Quindi è un lavoro per me, per le mie attrici, molto importante, perché con questo spettacolo aperto alla società esterna hanno la possibilità di uscire dalla loro sezione, incontrare il resto della popolazione detenuta che saranno ospiti come spettatori del nostro spettacolo, ma anche la società esterna. Quindi è un'occasione importante per loro, per mettersi in gioco, per mostrarsi in un modo differente, per incontrare più persone possibili, loro che stanno in una sezione chiusa all'interno del carcere, ma anche per aprire una luce e una riflessione anche su quest'altra parte di carcere di cui si parla pochissimo ed è ancora un grande tabù nelle carceri italiane. L'idea dello spettacolo come viene fuori? Lo spettacolo nasce da una frase detta anche nel libro da cui Troisi ha preso il postino, quando dice: la poesia è come l'amore, non ha sesso. E da qui è nata l'idea proprio di fare questo spettacolo. Abbiamo scelto questo spettacolo perché parla di quanto la cultura, l'arte, la poesia sia universale. Abbiamo deciso di non affrontare la questione di genere, ma di parlare dell'umanità di ognuno di noi. E quindi nasce da questo, ed è stato un percorso molto bello e molto importante per loro, ma anche per me. Come avete immaginato la messa in scena? È una grandissima follia, perché è frutto di un progetto breve che abbiamo iniziato a febbraio e doveva essere uno studio su quest'opera. Abbiamo iniziato vedendo il film Il Postino alla presenza di Maria Grazia Ginotta, poi abbiamo parlato del libro, doveva essere anche un'occasione per lavorare su di noi, ma anche per lavorare sulla lingua italiana, visto che molte delle persone presenti in sezione non sono italiane. E poi avevamo pensato di fare una breve lettura della nostra personale rivisitazione di quest'opera, perché Il Postino è diventato una postina, quindi sono cambiato un pochino i ruoli, ma l'essenza è rimasta la stessa. Siamo state così prese dalla preparazione e dallo studio di quest'opera, si sono impegnate così tanto che alla fine è nato un vero e proprio spettacolo, realizzato a tempo record, dove loro hanno iniziato a provare nei weekend in sezione fra di loro. Io sto andando molte più ore del previsto questo, però la voglia di fare, di mettersi in gioco loro è stata così grande che è diventata contagiosa, ma non solo per me, anche per il resto della sezione, perché io per arrivare da loro devo fare i corridoi delle varie sezioni maschili, quindi ora quando arrivo mi chiedono tutti che vogliono vedere questo spettacolo e sono veramente felice per l'impegno e per l'atmosfera che si è creata. Raccontiamo anche l'esperienza delle Donne del Muro Alto. Le Donne del Muro Alto nascono nel 2013 all'interno del carcere femminile di Rebibbia, nella sezione alta sicurezza, e il nome nasce proprio da questo muro nel muro, perché come per le transgender anche l'alta sicurezza è una sezione a parte. Poi il progetto è stato portato anche alla cosiddetta sezione comuni. Nel 2020 un'altra grande follia, non potendo entrare in carcere, la voglia di continuare il percorso con le donne che avevo incontrato in carcere, con cui avevo lavorato, che all'epoca erano insieme libertà, alle misure alternative, quindi poi sono state portate anche all'esterno e che ora lavoriamo anche all'esterno. Il progetto è diventato non solo di inclusione sociale ma anche di inclusione lavorativa, quindi facciamo la tournée con le attrici ex detenute o ammesse alle misure alternative alla detenzione. Poi siamo stati nel carcere di Latina e da quest'anno per la sezione transgender, quindi ogni volta scopriamo muri nuovi, non da scavalcare ma da battere al nostro modo, nel nostro piccolo. Ci dai tutti i riferimenti web per lo spettacolo? Lo spettacolo sarà l'8 giugno alle ore 16 nel teatro del carcere di Rebibbia Maschile e la pagina Facebook Le Donne del Muro Alto, trovate tutte le informazioni su di noi e sui nostri eventi. Io vi ringrazio perché trovate sempre uno spazio per raccontare di noi e per far arrivare la nostra voce sempre un pochino più lontano, quindi davvero grazie. Lo spettacolo Il Postino nella sezione transgender del carcere di Rebibbia giovedì 8 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Francesca Tricarico. A presto! Grazie! Il comitato di quartiere Villa Certosa, sulla 13ª edizione della festa di Ciro Principessa a Roma, via dei Savornian, sabato 10 giugno 2023. Ben trovato! Buongiorno a tutti! Raccontiamo, per chi non conoscesse, per i più giovani e le più giovani, come nasce questa festa. La festa nasce 15 anni fa, poi abbiamo avuto due pause per gli anni del Covid, da un gruppo di amici di Ciro Principessa, per ricordarlo. Ciro Principessa era un militante della PGC, della sezione di Tortignattara, che nel 1979 fu accoltellato a morte da un fascista. In particolare era il signor Claudio Minetti, il figliastro di Stefano Delle Chiaie, che veniva dalla sezione MSI di Scala Renzia. Entrò nella sezione della PGC quando era aperta la biblioteca, rubò un libro e Ciro, nel rincorrerlo, venne accoltellato a morte. Noi quindi abbiamo cominciato a organizzare la festa per ricordarlo, per ricordare comunque il fatto che si può morire anche per un libro. Come ha scritto Giulio Marcon nel libro in cui lo ricorda, intitolato proprio Morire per un libro. Come sarà strutturata l'edizione di quest'anno? Quest'anno abbiamo, come l'anno scorso, ormai abbiamo istituito due palchi, uno al Giardino Liberato, che è un giardino sopra un parcheggio che doveva essere acquisito dal comune, ma il comune non l'ha mai acquisito, è rimasto chiuso per anni finché noi non l'abbiamo occupato e aperto al pubblico, è reso un giardino pubblico come dovrebbe essere, e l'altro in Largo di Savornian, nella piazza del quartiere. Sul palco centrale inizierà Capitan Calamaio con il suo spettacolo per bambini, poi avremo quattro gruppi, gli Aguirre che fanno rock, Leo Pulcro che fa rap, la Tower Pine Blues Band che fa ovviamente blues e Moby che fa del finto pop, e chiuderà un sound system. Nell'intermezzo ci saranno i vari interventi e anche un piccolo show dello stand-up comedy Davide Grillo, e lo presenterà Lucio De Francesco. Invece al Giardino avremo più che altro i gruppi di due o tre persone che fanno più prevalentemente musica folk, Inizierà dalle 10 di mattina fino a mezzanotte inoltrata. Sempre al giardino avremo anche un biomercato e un mercato artigianale curato da AUM, e lungo la via gli stand delle associazioni e anche un paio di punti ristoro. Com'è stata la scelta artistica? Prevalentemente sono gruppi che si autopropongono. Ogni anno abbiamo sempre più gruppi che vogliono suonare con noi e si propongono per venire a suonare. Quest'anno siamo riusciti a metterli dentro quasi tutti, sono rimasti fuori solo un paio di gruppi. È una festa molto sentita dai musicisti, che si sentono di aiutare il comitato a sostenere le proprie spese venendo assolutamente a gratis, nel senso che noi ai musicisti diamo solo un panino e una birra sostanzialmente. Quindi non c'è nessun rimborso e di questo li ringraziamo civatamente. Quest'anno abbiamo puntato sul palco centrale, variare la programmazione con quattro tipi di musica diversa, quindi il rock, il rap, il blues e il sintopop, insomma, per dare un po' di varietà al programma musicale. Raccontiamo anche l'attività del comitato. Il comitato è nato oltre 15 anni fa con la lotta contro le antenne telefoniche che volevano installare un po' su tutto il quartiere, perché essendo una parte alta sopra Tortignattara avrebbe coperto tutta la zona. Ecco, questo ha fatto cominciare a mettere insieme i cittadini del quartiere e da lì è nato il comitato. Poi sono seguite le ricerche storiche sugli abitanti, sui partigiani della zona, e poi la memoria di Ciro, e un progetto di riqualificazione del quartiere in maniera generale vissuto e proposto dai cittadini, non aspettando che le istituzioni piovano dall'alto con le loro proposte. Una lotta contro la gentrificazione, avendo avuto l'esempio del Pigneto di non diventare il Pigneto 2, e quindi tutta un'attenzione sulla vita di quartiere per rendere la vita dei cittadini molto più agevole. Le vertenze in atto sono su delle aree verdi private che stiamo cercando di far acquisire dal comune, il giardino liberato, che è appunto un giardino pubblico che non è pubblico perché comune non l'ha mai acquisito, e la novità è il giardino di Ciro in largo dei Savornian, che era uno spazio privato che ci è stato dato in comodato in uso e noi abbiamo trasformato in giardino, e adesso stiamo cercando di acquistarlo per rendere un giardino pubblico, donarlo alla cittadinanza. Sostanzialmente noi investiremo i nostri soldi per comprare un giardino, per dare un giardino in più al quartiere che gli manca. Oltre al giardino ricordiamo che c'è anche un grande murales dedicato a Ciro Principessa. Sì, il grande murale è stato da No Art, riempie tutto il palazzo della piazza. Diciamo che il nostro quartiere è abbastanza pieno di murales che ricordano un po' le persone che hanno vissuto e amato il quartiere. Abbiamo anche il murale di Saverio Perri, che era un attore caratterista che viveva in Certosa. Abbiamo il murale del jazzista che veniva sempre a suonare in Certosa. Certosa, insomma, c'è molta street art, però molto più mirata alla vita delle persone. Il grande poster della banda Pepe era attiva in Certosa, banda partigiana di bandiera rossa. Diciamo che l'arte si fa molto vedere in Certosa, abbiamo molte presentazioni di libri, molti autori vogliono venire a presentare libri in Certosa, molti registi frequentano la Certosa e scelgono la Certosa come luogo di riprese, perché c'è un ambiente molto diverso da quello che può sembrare Tortignattara, è molto ameno, molto paesino. Collaborano con noi, ci chiedono aiuto e ci sostengono. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sulla pagina Facebook del Comitato Certosa trovate l'evento 13ª festa di Ciro, in cui ci sarà il programma completo di tutte le attività sia musicali che di stage collaterali alla festa. Ci vediamo lì. Sì, grazie a tutti e un saluto. Il Comitato di Quartiere Villa Certosa sulla 13ª edizione della Festa di Ciro Principessa a Roma, via dei Savornian, sabato 10 giugno 2023. Arianna dell'associazione Configno per presentare l'evento Macerbe, domenica 11 giugno 2023. Ben trovata. Ciao a tutte e a tutti. Di cosa si tratta? Ma serve nasce l'altro anno anche dal mio muovermi e abitare insomma a Confine, una piccola frazione di Amatrice. Io sono cuoca e appassionata di erbe spontanee ad uso sia commestibile che erboristico, e nelle mie passeggiate in questo piccolo paese si è instaurato questo rapporto con la natura, che è anche un progetto che nasce da una reazione anche rispetto a quello che è il terremoto e la forza che le piante hanno per suggerirci anche un atteggiamento differente per stare in questi luoghi, soprattutto attraverso la connessione con la relazione essere umano-natura. Come era nata l'idea di questa festa? Dalle mie intime quotidiane passeggiate, osservando tra le macerie queste erbe che ricrescono e che si riprendono i loro spazi, ridisegnando anche profili di case evanescenti, anche un possibile futuro relegato alla ricostruzione, e soprattutto una ricostruzione che non è semplicemente materiale, che senta o comunque che in questo periodo si riesce a intravedere, ma anche e soprattutto una ricostruzione immateriale, che credo sia la cosa più importante. E quindi attraverso questa conoscenza che coltivo e desidero mettere a disposizione proprio per creare momenti di socialità attraverso un incontro fatto di convivialità e condivisione. E in questo caso Macerbe l'11 giugno sarà ancora più specifico, perché ci incontreremo nel punto della frana che ha colpito la strada provinciale che collega Amatrice, le frazioni e L'Aquila, e quindi anche importante per quanto riguarda la ricostruzione, per i mezzi che si passano, e ha bloccato completamente il passaggio. E quindi noi ci incontreremo riempiendo questo vuoto che ha lasciato, la sensazione che ha lasciato dentro è un profondo senso d'abbandono. E quindi noi la riempiremo attraverso appunto l'identificazione di piante e soprattutto la musica, quindi questa contaminazione esterna dell'orchestra romana che si chiama appunto Balkan Lab Orchestra, che ci guiderà verso il paese, anche quindi osservando il paese come sta oggi e noi come ci sentiamo. Come sarà articolata la giornata? L'incontro è alle 3:30 e inizierà questa passeggiata dalla strada provinciale che è la Vicente 260, e man mano entreremo nel paese, appunto camminando lentamente, riconnettendoci anche con quelli che sono i ritmi di questi luoghi e entrando mano a mano nel paese, per poi concluderla con una merenda e ancora musica. Per l'occasione, lo scorso anno della prima edizione, si è creata una rete di realtà che si muovono sul territorio, giusto? Assolutamente, infatti come le piante insegnano e organizzano un modello diverso, appunto ramificato, anche noi mano a mano attraverso questi incontri andiamo a costruire proprio questa rete che si allarga sempre di più e ci sostiene a vicenda per affrontare anche momenti a volte un po' duri, ma insieme attraverso appunto una chiamata che anche questa giornata rappresenta, ci rincontriamo e forse allarghiamo ancora di più la rete per costruire una realtà che poi è fatta appunto di presenze e di condivisione. Che iniziative riesce a mettere in campo l'associazione nel corso dell'anno? È importantissimo, è una festa a cui teniamo molto e che ogni anno sta prendendo sempre più significato, è la festa del 18 giugno che si chiama Antichi Saperi, Antichi Sapori, dove tutti noi giovani e non della nostra frazione mettiamo in campo questa nostra profonda appartenenza e desiderio anche di non abbandonare questi luoghi, collegando appunto le nostre tradizioni, i nostri saperi sia gastronomici che non, invitando agricoltori, produttori, quindi creando un piccolo mercato, una piccola piazza, anche perché comunque la questione del terremoto ha chiaramente metamorfizzato il territorio. E anche appunto invitiamo amici, invitiamo persone che hanno scritto libri sul territorio, su racconti, e quindi ecco la nostra festa del cuore è il 18 agosto e anche quest'anno sarà ricca di sorprese. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Per quanto riguarda Maserbe potete ritrovarmi sui social, io sono Arianna Saldi e lì troverete la locandina con tutti i riferimenti. Per chi fosse interessato, insomma, potete contattarmi in modo tale da agevolare l'organizzazione. Mentre per quanto riguarda l'associazione Configno si può trovare sempre sui social, sia Facebook che Instagram, dove pubblicheremo insomma tutti i riferimenti per quanto riguarda la festa degli antichità per i sapori e altre informazioni utili. L'evento Macerbe domenica 11 giugno 2023, un saluto e un ringraziamento ad Arianna dell'associazione Configno. A presto! Grazie di cuore, a presto, ciao! Con Giovanni Pietrangeli per presentare Zapruder 60, che gelida manina, malattie e cura. Presentazione della rivista a Milano, libreria Le Mot, martedì 6 giugno 2023. Ben trovato. Buonasera a tutti e tutte. Partiamo dall'esperienza Zapruder, ce ne parli? Zapruder è una rivista di storia della conflittualità sociale che nasce all'indomani del G8 di Genova, da confronto tra storiche, storici, insegnanti delle scuole o comunque in generale tutte quelle sono professionalità che hanno a che fare con il passato, e nasce dall'idea di voler creare uno spazio di confronto per ragionare criticamente sulla storia degli aspetti conflittuali del passato e sulla riflessione critica del dibattito pubblico intorno appunto all'utilizzo della storia e di tematiche legate al tempo passato. È ormai appunto una storia piuttosto lunga, 60 numeri alle spalle, altri in preparazione, e si basa principalmente su una metodologia di lavoro orizzontale, assembleare, in cui redattori, curatori, autori, autrici si confrontano periodicamente per parlare dei temi e dei contenuti degli articoli. Com'è strutturato questo numero? Con quante firme? Il numero è piuttosto corposo, come potete immaginare il tema della malattia e della cura è nato da una riflessione condivisa con le altre due curatrici che sono Ilenia Rostini e Luisa Renzo, a partire dalla pandemia da Covid-19 che stiamo attraversando ormai dal 2020. È un numero che chiaramente non si concentra tanto sull'ultima pandemia che abbiamo conosciuto come umanità, ma cerca di indagare quelle che sono le costanti o i temi che si riaffacciano periodicamente ogni qualvolta le comunità umane hanno a che fare con agenti patogeni, il che significa che dall'età antica, con un contributo ad esempio sulla pestilenza ateniese raccontata da Tucidide, a appunto anche all'ultima pandemia, abbiamo comunque raccolto tantissimi contributi che cercano di raccontare quegli aspetti come il tema delle false notizie, delle cosiddette fake news, del folklore, il tema del pregiudizio, dell'esclusione di soggetti che vengono identificati in maniera popolare o in maniera pregiudiziale come untori o come soggetti più sensibili e come tali proposti per la segregazione o per l'allontanamento dalla comunità dei sani, oppure le disuguaglianze che nel corso dei secoli si sono manifestate nel momento in cui non vengono date indicazioni chiare in campo sanitario e quindi si lascia un po' alla liberista la capacità di ognuno, di ognuna, di potersi salvare per conto proprio da una situazione di crisi sanitaria. Alla stessa maniera abbiamo voluto comunque indagare quelle che sono le misure di sanità pubblica che si sono manifestate specialmente nel nostro territorio, o la memoria di pandemie da poco passate, ad esempio la spagnola, dalla cui rimozione, dal sentimento pubblico in qualche maniera possiamo far risalire il senso di sicurezza, il falso senso di sicurezza che abbiamo constatato averci reso ancora più esposti di fronte al Covid-19, perché nel momento in cui specialmente l'Occidente euroatlantico per quasi un secolo non si è visto comunque esposto a una epidemia di una tale portata e gravità, abbiamo collettivamente rimosso il nostro posto nel mondo nel quale chiaramente anche i patogeni, di cui i patogeni fanno parte, e quindi in qualche maniera siamo stati colti di sorpresa sia come persone, come singoli, come società, ma anche chiaramente sono stati colti alla sprovvista, in maniera per questo caso sicuramente più grave, anche chi doveva premunire la società di quegli strumenti di difesa e tutela. Ci saranno una serie di presentazioni pubbliche, giusto? Sì, le presentazioni, insomma, come tutti i numeri, le organizziamo un po' anche in base alle proposte che ci arrivano da librerie, collettività, info shop e quant'altro. La prima inizia la prima presentazione numero 60 a Milano il 6 giugno dalle 18.30 dalla libreria Lemo, che è una libreria comunque che con Zarruder ha fatto lunghi pezzi di strada insieme, e dialogheranno con il sottoscritto Vittorio Agnoletto, medico ben noto anche agli ascoltatori e ascoltatrici della radio, da anni impegnato su tematiche legate alla democratizzazione della salute e all'accesso a cure e a dispositivi sanitari democratizzati, aperti e garantiti a tutti e tutte, e Serena Tarabini, che è una giornalista che si occupa di tematiche ambientali per il Manifesto Radio Popolare. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Come al solito potete seguire la vita dell'Associazione Storia in Movimento, quindi della rivista che viene di fatto prodotta dall'associazione, sulla pagina storiainmovimento.org, sulla pagina Facebook Zapruder, sui social, e ovviamente dalla nostra pagina web è possibile anche acquistare il numero, oltre che quello corrente anche tutti gli altri 59 arretrati. Zapruder numero 60, dal titolo che gelida manina, malattie e cura, una presentazione a Milano, libreria Lemo, martedì 6 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Giovanni Pietrangeli. A presto! Grazie a voi, ciao! È il momento dell'agenda per gli appuntamenti settimanali di eventi culturali, ma soprattutto teatro, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti e buon pomeriggio. E questa è una settimana ancora un po' interlocutoria, dove ci sono un po' di rassegne che arrivano a chiudere un po' la stagione, soprattutto del Teatro di Roma, con il microfestival dei laboratori teatrali delle scuole superiori di Roma, Salle San Paolo, e poi Buffalo, poi Danza Contemporanea, ma ne parleremo in chiusura. Prima di tutto partiamo dal Teatro Tor Bella Monaca, che segnaliamo questa settimana un solo spettacolo, il 6 di giugno, Beauty Dark Queen, cioè questa sera lo strano caso di Elena di Troia, regia di Stefano Napoli, la compagnia è Colori Proibiti, si tratta appunto di un lavoro che è già stato in tournée nel 2017 e riporta in scena due uomini, una donna, una dea, una statuetta. Insomma, Menelao, padre di Elena, Afrodite e Eros, la storia la conosciamo, una dark queen dalla bellezza fatale, appunto questa Elena che diventa per Paride e per Menelao il motivo del contendere, il motivo di una guerra decennale che arriva da fino ai giorni nostri, quindi un motivo un po' relativo. Teatro Tor Bella Monaca questa sera, Beauty Dark Queen con Elena di Troia. Al Teatro Basilica invece, ultimi giorni, oggi e domani, per vedere questa rassegna di danza contemporanea, per dare spazio agli artisti che insomma, lavorino particolarmente nel presente con la loro ricerca del linguaggio corporeo, ma anche attraverso le loro tematiche, e un paio di spettacoli, c'è cioè un paio di serate ancora oggi e domani per vedere Living Beauty di Nico Piscopo, Black Beach, Beauty Black Beach, e domani un altro lavoro firmato dalla compagnia Sosta Palmizzi con Zubzuan, credo di aver pronunciato bene, di, e con Elisabetta Lauro e Gennaro Andrea Lauro, che curano appunto la coreografia di questo lavoro. Quindi al Teatro Basilica arriva la danza in questi due giorni, ma altri appuntamenti di cui possiamo parlare, beh, sicuramente della danza appunto il Buffalo parleremo tra un attimo, ma quel che mi interessa anche segnalare questo piccolo festival con lo Strega alle Autrici 8-10 giugno al Teatro Tor di Nona. È un progetto di Anna Maria L'Oliva dedicato al premio Strega, insomma, fondato da una donna straordinaria che è stata Maria Bellonci, che ha dato un fondamentale impulso alla rinascita, ma insomma all'attestazione culturale di un paese dagli anni dopo la guerra fino poi ai giorni nostri, in cui il premio Strega è il più importante premio italiano. L'8 giugno, un giorno dopo l'annuncio ufficiale della Cinquina dello Strega, questo progetto cerca di rivalutare la presenza femminile nel corso della storia del premio, ma anche perché in questa edizione 2023 c'è per la prima volta una prevalenza di donne nella dozzina, 8 su 12 sono donne, quindi insomma una percentuale particolarmente alta. Quindi sono 3 gli appuntamenti di questa settimana, 8, 9, 10 giugno, per tornare nelle parole di 3 tra le maggiori autrici del secolo, italiane del secolo. E si parte con Natalia Ginzburg, lessico familiare, con l'autrice Michela Monferrini, l'attrice in lettura sarà Miriam Spera, che vince il premio Strega nel 63. Venerdì, Anna Maria Ortese con Poveri e Semplici, che vinse il premio nel 67, l'attrice sarà Angela Bubba, l'attrice Francesca Pimpinelli. Si chiude sabato 10 giugno, sempre alle 20:30, con La signora della letteratura italiana, Elsa Morante, L'isola di Arturo, premio Strega nel 1957, e a leggere sarà Cristina Ombrì, la relatrice ancora una volta Angela Bubba. Questo al Teatro Tor di Nona per questa settimana dedicata al premio Strega. Ha quindi appunto i 2 appuntamenti di cui parlavamo poc'anzi. Fino al 7 giugno il festival, microfestival dei laboratori teatrali delle scuole superiori di Roma Capitale, ideato dalla carrozzeria Not, del collettivo artistico Isola Teatro, con appunto Alice Enfant, questo microfestival giunto alla 6ª edizione che coinvolge appunto gli istituti superiori, che vede insomma non soltanto opere messe in scena, ma sicuramente la cosa più importante, i tanti laboratori, le possibilità di workshop condotto dai ragazzi che frequentano l'Accademia Silvio D'Amico. Insomma, ci sono un bel po' di appuntamenti che potranno insomma, formare i ragazzi appunto che verranno dalle scuole superiori, chissà, avviandoli magari alla passione teatrale, saranno attori, ma io credo, spero più facilmente spettatori del futuro. Quindi ci saranno però anche artisti importanti: Valerio Marorni, Cesaro, Chiara Blasi, Rosa Masciopinto, Mariella Ceria, Emanuela Vallone, Claudia Mazzicano, che faranno da tutor, e ci sarà anche un percorso coordinato, corso didattico autogestito alle HOT, coordinato dalla mia nostra Lucia Medri, di teatro e critica, insomma, che permetterà di affrontare tematiche, domande che saranno proprio i ragazzi insomma a mettere in campo, e attraverso una moderazione insomma guidare un dibattito su certi temi urgenti per questa generazione. Quindi ancora questa sera e domani per Alice Enfant al Teatro India. Chiudiamo appunto con la rassegna di danza contemporanea al Teatro di Roma, precisamente Teatro India, Teatro Torlonia e Macro, a cura di Michele Di Stefano, insomma la 4ª edizione di Buffalo, appunto dedicato alla danza contemporanea, 8, 9, 10, 11 di giugno, quindi questa settimana dall'8 in poi coperti dalla danza. Segnalo grandi personaggi della danza nazionale e internazionale, tra tutti Alessandro Sciarroni, ma anche Cenere, Nicola Cisternino, vedo Ivana Miller, Cristina Cristal Rizzo, insomma, ci saranno incontri e performance, spettacoli, insomma, che tra arte performativa e arte visiva che si mescolano, occuperanno gli spazi del Teatro di Roma e del Macro, cioè d'arte contemporanea di Roma, insieme alla collaborazione dell'Istituto Svizzero e dell'Accademia di Francia, Villa Medici, insomma. Fornisce un certo supporto. Quindi Buffalo dall'8 all'11 giugno per il Teatro di Roma. E poi veniamo a appuntamenti da non sottovalutare. Prima di tutto, domani in Piazza San Cosimato a Trastevere, Planimetria sentimentale del disastro, un testo di Graziano Graziani, che lo stesso Graziano Graziani presenta con il nostro amato Federico Raponi, che si vedrà attorno a 2 personaggi, a briglia sciolta, ossia Gioia Salvatore e Ivan Talarico, insomma faranno ciò che sanno soltanto loro, e quindi chissà. Il lavoro di Graziani è particolarmente interessante e indaga il dal suo punto di vista, quello che è appunto il disastro sentimentale, in qualche modo forse può per esorcizzarlo, chissà, molto interessante il libro, io l'ho letto e lo consiglio vivamente. E poi venerdì 9 giugno abbiamo anche un appuntamento firmato Raboni, perché è la libreria Raboni, vivaio Albero Blu, al Sotto Magnoli, a presentazione del libro Capitali Criminali con l'autore alle 18.30. Quindi Federico, direi che sei molto protagonista in questi prossimi giorni e a questo punto ti lascio la parola perché dovrei andarti a preparare. Ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.